Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Un caldo, tutti si lamentano di questo caldo che effettivamente insomma qualche fastidio lo produce, però è estate, vogliamo dire che è estate, ci saranno i picchi, poi dopo riscenderà naturalmente per quelli un po' più fragili, è un problema, ma cerchiamo dopo pioggia, dopo stagioni che non si capivano, che non ci sono più le mezze stagioni, insomma l'estate è arrivata, il caldo in qualche modo lo dobbiamo sopportare, poi non è sempre così negativo. Roberta Giordano con voi, iniziamo subito con la calura, ma con sprint questa puntata, cominciando a pensare a quali sono le notizie che più vi hanno colpito questa settimana, una settimana ricchissima anche questa di fatti, è vero, piuttosto anche eclatanti, clamorosi, anche di entusiasmo. 800 24 00 24, subito il numero verde per voi, numero verde e quindi anche ecologico, in modo, dico sempre, che non disperdiate le vostre energie in altri rivoli, ma tutti concentrati qui su Non ci sono più le mezze stagioni. Tra pochissimo vi presenterò l'opinionista estemporaneo di oggi per commentare insieme le notizie di questi giorni, notizie che vi vado naturalmente a riassumere come sempre molto brevemente, però poi decidete voi qual è quella che più vi sta a cuore. Beh, intanto potrei dirvi che, se volete, potete riflettere su questa cosa e poi naturalmente anche sugli altri fatti. Due cose mi piacerebbe sapere da voi. Per esempio, banalmente, ma so che l'entusiasmo è grande per questa cosa, e quali sono i vostri pronostici per domani, Italia-Spagna? Si accettano scommesse con fagioli naturalmente, con la tombola, niente di lucroso. E poi, con chi secondo voi il PD dovrebbe allearsi per le prossime elezioni? Questo è un interrogativo incredibile, non si capisce ancora, ci sarà un'alleanza, ci sarà un centro-sinistra, che farà? Queste possono essere due cose sulle quali potreste intervenire all'800 24 00 24, ma vi dicevo, vi elenco giusto alcune delle notizie, abbiamo già detto un po' riassumendo, insomma, un'Italia che questa settimana ha vinto al vertice di Bruxelles con Monti, come anche sul campo di Varsavia abbiamo visto, e per l'Europa arrivano 120 miliardi per la crescita, c'è questo scudo anti-spread dopo lo scudo spaziale degli anni scorsi tra Stati Uniti e Russia, c'è lo scudo anti-spread. Poi Marchionne, amministratore delegato di Fiat, che dopo la sentenza di Pomigliano dello stabilimento campano, sapete che i giudici hanno detto la sentenza dei magistrati è stata questa: la Fiat deve assumere 145 operai della FIOM, del sindacato legato alla CGIL a Pomigliano, perché ha operato una grave discriminazione. Cosa ha detto Marchionne questa settimana? Ha detto questa sentenza è folklore locale. Cosa ne pensate anche di questa affermazione? Poi, sempre riguardante il lavoro, questa via libera, l'ok della riforma del lavoro, quindi è passata con un po' di mal di pancia, senza molta convinzione, un po' da parte di tutti, tranne che dalla ministra Fornero, anche qua se avete qualcosa da dire può essere interessante. Poi sapete tutta questa polemica sul fatto che lei a Wall Street Journal avrebbe detto ma il lavoro non è un diritto, poi dopo ha rettificato, non sono stata tradotta nel modo giusto, ci sono stati anche diversi commenti sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. E poi Confindustria, che la vede piuttosto nera e dice questa crisi è come una guerra, sono colpite le parti vitali e produttive del paese, anche se appunto sono arrivate queste notizie perlomeno confortanti dall'Unione Europea, dal vertice di Bruxelles. Poi sappiate che il Senato ha detto sì al Senato federale con i voti di PDL e Lega, quindi torna questo asse Lega-PDL, tra poco parleremo anche della Lega, e questo Senato federale, con tutti gli altri voti contrari degli altri gruppi che hanno parlato di un voto di scambio tra PDL e Lega, questo Senato federale prevede un'assemblea composta da 250 componenti eletti direttamente e 21 rappresentanti delle regioni. Berlusconi intanto torna a dire che si candiderà forse come ministro dell'economia, forse come alle primarie, come di nuovo leader del PDL. Sembra che da alcuni sondaggi degli ultimi giorni lui sarebbe il preferito, insomma, dagli elettori. E torna, dicevo, a parlare dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Poi una cosa molto importante, se vogliamo, a livello internazionale, è la riforma sanitaria di Obama, che è passata negli Stati Uniti. La Corte Suprema ha detto sì, questa è una legge giusta, in modo che anche, diciamo, i più poveri possano avere una salvaguardia sulla loro salute, non siano abbandonati a se stessi perché non possono pagarsi delle carissime assicurazioni, non è il massimo, è il sistema sanitario negli Stati Uniti e questo è un primo passo. Ci sono anche le elezioni in Messico, uno dirà vabbè, ma che c'entra il Messico? No, il Messico c'entra, si elegge il nuovo presidente perché è un paese che ormai è praticamente devastato dal narcotraffico, dalla criminalità che uccide decine di persone al giorno, staccano la testa, strappano i cuori, una situazione terribile in Messico. Poi che altro? Un carabiniere ucciso in Afghanistan e molte altre notizie, insomma, vanno dette fin troppo. 800 24 00 24, e poi ovviamente ci sono anche le notizie che come sempre ci confermano anche questa settimana che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere, sono un granché. Quante volte avete sentito, forse l'avete detto voi stesse, voi stessi, i pomodori non sono più quelli di una volta? Io devo dire la verità, non mangio pomodori mai, proprio a meno che non mi puntino la pizza, io non li mangio questi pomodori, perché quando ero piccola mi ricordo avevano un loro sapore, adesso sanno di plastica, dico perché devo mangiare i pomodori che sanno di plastica? Mangio 3000 altre verdure, no? Ebbene, adesso pare che i pomodori che non sono più quelli di una volta potrebbero ritornare quelli di una volta e non essere più quelli di una volta, cioè di oggi, insomma, una cosa molto complicata, ma in realtà lineare. Uno studio dell'Università della California a Davis, studio che viene descritto poi dalla rivista prestigiosa Science, racconta che si può restituire ai pomodori del supermercato il vecchio sapore. Potrebbe essere questo possibile facendo cosa? Manipolando un gene che è responsabile della maturazione uniforme dei pomodori, che da verdi verdi verdi diventano in modo uniforme rosso, perché con i coltivatori negli anni si sono selezionati, insomma, i tipi, le specie di pomodori per farli diventare subito così. Questo però cosa ha fatto? Ha abbassato il livello di zucchero, diciamo così, dentro il pomodoro, quindi quando arriva la maturazione sarà proprio di un tubo. E invece pare che secondo questa ricerca, dopo circa 70 anni che i pomodori sono sempre più peggiorati, potrebbero di nuovo sapere di pomodori. E invece delle notizie che ci confermano che ci sono ancora le mezze stagioni, Ustica, sono passati 32 anni senza colpevole. I morti continuano a essere lì senza una giustizia e così le loro famiglie, quindi tutto regolare anche con i femminicidi, ce ne sono stati anche questa settimana, in particolare non so se avete sentito di quella povera donna Legnano in Lombardia che scappava col figlioletto, uno dei tre che aveva in braccio di 2 anni, il marito un primario oculista di Legnano, mica un manovale, sapete, uno si immagina, no, quello tutto smandrappato, magari un po' cavernicolo, no, un primario di oculistica che l'ha inseguita per le scale mentre lei fuggiva col figlioletto, col mattarello le ha sfondato la testa. Ecco, diciamo che ci sono ancora per certi versi le mezze stagioni. Ma adesso bando alle ciance, signore e signori, vi presento l'opinionista estemporaneo di oggi. Giordano Bruno Guerri. Con rullo di tamburi, che bello. Beh, buongiorno. In tuo onore, per un ospite così prestigioso, Giordano Bruno Guerri. E Giordano, hai sentito, di notizie ce ne sono moltissime. Poi ci dirai tu, giornalista, scrittore, storico, docente all'Università Guglielmo Marconi di Roma, che pensi di tutti questi fatti. Ma io so che tu, tra l'altro, stai duramente lavorando in un posto dove nessuno, diciamo la verità, vorrebbe essere, soprattutto d'estate, no? È così? Beh, in effetti sono in un luogo storicissimo, in questo momento mi trovo niente meno che nella stanza dove Lenin spesso riposava a Capri. E tu lo senti quasi russare, l'impressione è così forte che lo senti russare, Lenin, di la verità. Beh, io ho dormito qua stanotte e devo dire, per uno storico, ognuno ha i propri feticci. Me lo sentivo intorno, sono anche parlicchiato un pochino. C'è un feticista di Lenin, insomma. Del panorama stupendo. Però hai ragione, sono qui per lavoro, fa un caldo tremendo. Beh, non ti lamentare a Capri, mo che fa caldo, ti fai un tuffo lì nelle acque quasi limpide, perché anche lì sono peggiorate a Capri. Senti, sei lì per un premio, mi sembra. Sì, perché è rinato quest'anno il premio Malaparte, storico premio fondato negli anni Ottanta, all'inizio degli anni Ottanta da Graziella Lonardi, che ha premiato in 14 anni da Solbelov a Le Carré, a Manuel Puig, alla Gordimer, a Isabella Allende, insomma ha anticipato anche diversi premi Nobel. è un premio singolare perché non è fatto con apparati giganteschi, la giuria era presieduta da Moravia, adesso da Raffaele La Capria, e diamo una cesta di limoni in premio, la possibilità poi di lavorare a Capri, e finalmente questo bel premio importante è rinato per la volontà della nipote di Graziella Lunardi, Gabriella Buontempo. Quindi l'abbiamo premio, presentato stamattina. Il premio è una cesta di limoni, se ho ben capito, la possibilità di lavorare. Mi sembra la possibilità, certo, di stare un mese a Capri a lavorare. Appunto, dicevi la meraviglia di stare qua, possibilmente non con 40 gradi, ma un po' fuori stagione. Quest'isola è veramente perfetta. Senti, ma Giordano, tu lo sai che più di te soffrono in questo momento i parlamentari in Parlamento. No, sai che Cicchito ha lanciato l'allarme vacanze. Stanno reclamando le vacanze, hanno un bisogno disperato. Oh, io ho letto da qualche parte un vecchio articolo di Spadolini, storico anche lui, il quale scriveva, lui è stato presidente del Senato, scriveva che non c'è scritto da nessuna parte che il Parlamento debba chiudere per vacanze. È vero. E che facciamoli lavorare anche il Parlamento è sovrano, in tutto, e può decidere anche di non fare le vacanze. Mi sembrerebbe una bella decisione, un taglio alle proprie ferie. Ma staremo a vedere se prenderanno questa ponderata decisione. In realtà ti devo dire due cose. Uno, che anche persino Anna Finocchiaro del PD ha difeso Cicchito in questi giorni dicendo: ma no, vabbè, scherzavo, adesso non facciamo un polverone di questa cosa, vabbè, giusto, anche noi faremo le vacanze, non so se per, diciamo, solidarietà parlamentare e vacanzistica. Però devo dire, io sono piuttosto incredula, se queste notizie sono vere, è apparsa in questi giorni sui giornali una scheda di quanto fanno vacanze negli altri paesi. Non è che Malcomune mezzo gaudio, tra l'altro mi pare che la classe politica di altri paesi funzioni un po' meglio, ecco, se dobbiamo fare la storia degli ultimi 20 anni e non solo. Ma vi dico a te, Giordano Bruno Guerri, e alle ascoltatrici e agli ascoltatori, un po' faccio una panoramica di cosa fanno d'estate gli altri paesi. Allora, la Francia dice: la sessione ordinaria annuale del Parlamento francese comincia il primo giorno lavorativo di ottobre, cominciano a lavorare il primo giorno di ottobre e finisce l'ultimo giorno lavorativo di giugno. Quindi fanno fanno luglio, agosto e settembre, 3 mesi di chiusura di vacanza in Francia. La Germania di cui abbiamo parlato molto, abbiamo avuto molto a che fare con la Germania in questi giorni. Bene, l'ultima seduta del Bundestag tedesco prima della pausa estiva è in programma venerdì 29 giugno, qui vanno un pochino più avanti. A partire da questa data il Parlamento ha 10 settimane di pause estive, la ripresa dei lavori è il 10 settembre. Mi pare che non se la cavino malissimo neanche loro, no? Poi la Gran Bretagna, anche i parlamentari britannici quest'anno sono un po' finiti nella bufera per via delle loro lunghe vacanze. Quest'anno i deputati del Regno Unito sono già andati in ferie dal 28 marzo al 15 aprile per Pasqua, dall'1 all'8 maggio prima del discorso annuale della regina Elisabetta e dal 24 maggio all'11 giugno per la Pentecoste, il Giubileo di Diamanti, sai? Le vacanze proseguiranno dal 17 luglio al 3 settembre per la consueta pausa estiva, tanto per fare un giro in Europa. Quindi... Ma sai qual è il rischio di questi tempi? Che se il Parlamento sta tanto chiuso e il governo continua a lavorare, già c'è nell'aria il fatto che ne possiamo benissimo fare a meno di un Parlamento, che quello sarebbe un grosso taglio alla chi stessa. Va via perde il posto all'osteria, vuoi dire? Vabbè, staremo a vedere se può essere questo un deterrente. Intanto all'800240024 c'è Mario da Verbania sul Lago Maggiore, quindi Mario, no? Sì, sono io. Buongiorno. Cosa fa, un po' fresco sul lago di Maggiore? No, ci sta bene. Non è un problema. C'è un 26, non è un problema il caldo. No, direi no, il problema non è il caldo, direi che questa è una zona baciata in fronte, tra il lago, le montagne, non abbiamo mai climi. Che fortuna sfacciata, aggressivi. Mario. Meno male. Sia in un senso che nell'altro. Senti, io questo so buon clima cosa ti fa pensare, quindi? Che idea ti ha fatto venire? No, niente, io stavo soltanto tentando di rispondere a quella che è stata, mi pare, una sua domanda, che cosa si vede per il futuro politico. Per il PD, io le posso dire che, a mio avviso, credo che i tre partiti che oggi formano una coalizione tutto calcolato, sarebbe meglio che restassero come tali, che si mettessero in una stanza come se fosse in Vaticano per il conclave, li chiudono dentro, tutti hanno del buono da dare, e la situazione tale, invece di stare a portarci al voto, la prolungassero. Così com'è. Se poi vogliono fare dei piccoli aggiustamenti. Quindi Mario, dici che si arrivi alla fine naturale della legislatura nel 2013 e si voti. Ma no, allunghiamola. Ah, allunghiamola addirittura. O se fosse da parte mia gli darei 5 anni, non ne parliamo più. Di galera. Questo è un po' poco probabile, Mario, anche se può essere il tuo auspicio. Ma tu, per esempio, per quanto riguarda il PD, no? Poi leggiamo anche le provocazioni di Vendola, provocazioni, insomma, degli avvertimenti. Ha detto, guardate, ha detto al PD che se volete me, Sel, e non volete l'Italia dei Valori, io non ci sto col PD, io non mi alleo, cioè rispolvera quella famosa foto definita la foto di Vasto, dove si abbracciavano, si davano a braccetto Bersani, Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, e Vendola, per l'appunto, leader di SEL. Perché pare che adesso invece il PD stia corteggiando, in realtà lo corteggia da un po', ma sembra che si sia esposto un po' di più nei confronti dell'UDC di Casini. Tu ce li vedi PD e UDC insieme? Mario, guardi, io vedo che il PD a me piace come tale, posso dirle, da solo. Tutte le volte che cerca di andare a allacciarsi a qualcun altro, secondo me può anche fare del danno a se stesso. Perché che se ne dica, un Partito Democratico piace, il Partito Democratico che non fa sbaffi destra, sinistra, centro e quant'altro, a me piacerebbe di più. Mario, ritengo anche gli altri due partiti abbiano del buono. I tre, secondo me, possono fare del bene a loro stessi e all'Italia. Più vanno a mescolare carte, cercare alleanze, doppi legami, secondo me sporcano qualcosa che sembrerebbe avviarsi verso una pulizia, non so come chiamarla. Mario, senti, a parte la pulizia, che poi decideremo come chiamarla, dammi una risposta secca. Italia-Spagna, un pronostico. Guardi, le devo dire, facessero pari sarei contento, ma non possono. A me delle partite, delle battaglie, delle vittorie sul campo di football, sì, mi appassiona, ma non più di tanto. Preferisco i risultati in campo economico, preferisco il Mario che conta. Il Mario, quel presidente del Consiglio. Apprezzo molto quel ragazzo, per carità, famiglia meravigliosa e ragazzo meraviglioso. Mario, ci dobbiamo lasciare, ti ringrazio. C'è Beatrice dalla provincia di Pistoia. Beatrice. Sì, buongiorno. Buongiorno Beatrice. Buongiorno, io ho sentito tra i vari argomenti che avete proposto le alleanze del PD. Sì. A mio avviso il PD deve andare da solo, perché ha delle anime diverse che possono sicuramente rappresentare tutti i vari aspetti sia della politica sia del rinnovamento con Renzi, a Vendola, a tutto quello che può servire, per cui secondo me può correre da solo, mi sembra una strategia vincente questa. Può essere, Beatrice, no? Che per mantenere una sua identità un po' più precisa e senza mescolarsi a troppe altre anime, però probabilmente la preoccupazione è di dover formare una coalizione, perché altrimenti poi non ce la fai ad accorpare una maggioranza sufficiente a governare, no? Questo è il problema, sennò probabilmente il PD farebbe bene a meno di allearsi per esempio con l'UDC o con altri partiti. Che dici, Beatrice? Io dico sicuramente ma successiva, non antecedente, per cui poi sui programmi, su quello che si vuole realizzare, ci potrà essere successivamente un'alleanza ove i numeri vengano a mancare. Però Beatrice, molti dicono, giustamente anche molti elettori, noi l'alleanza che si formerà la vogliamo sapere prima, non prima li votiamo e poi magari si alleano con chi a noi non ci sta simpatico, no? Beh, naturalmente questa è una obiezione giusta, però io sono convinta che possa avere le chance di allearsi sulla base di fatti, di idee, di strategie, mi spiego? Ti spieghi? Non tanto ti spieghi. Dire andiamo con Casini, non tanto andiamo con, perché può essere una cosa perdente, sembra ormai una vecchia politica. Io sono andata a sentire Renzi, tra l'altro, a Firenze la scorsa settimana, ho visto, insomma, c'erano tanti sindaci, tanti amministratori. Ti piace? Ti piace Renzi, Beatrice? Sì, mi piace Renzi. Io quindi alle primarie lo voteresti? Allora, io sono impegnata in politica e sono stata finora una bersaniana, dico la verità. Mi piace molto anche Renzi, devo rifletterci. Senti, mentre mi è piaciuto tantissimo, mi piace mettermi in discussione e vedere tutte le varie. Mi piace anche Vendola, per quello che io dico che ci possono essere delle energie positive. Quindi bisogna spennare la margherita. Allora, finché lo fai, la margherita non l'ex partito, la margheritina per decidere, Beatrice. Ma nel frattempo, dimmi una cosa. Italia-Spagna, qual è il tuo pronostico? Italia-Spagna, Italia. Italia? Italia quanto però? Quanti gol potrebbe fare? Sì. Italia quanto? Anche 1-0. 1-0 può bastare. Sì. Ti piace il calcio? Allora, guardo queste partite, magari non dall'inizio alla fine perché mi viene un po' di batticuore. Non mi piace il calcio, però quando ci sono queste partite le guardo. Un po' di aritmia. Grazie Beatrice da Pistoia. Ciao Beatrice. Grazie a te, ciao. Ciao. Giordano Bruno Guerri, tu sei un tifoso, sei uno che... Non molto, però avendo un figlio piccolo che naturalmente socializza attraverso il calcio, sto imparando a fingere benissimo di essere tifoso e fingendo alla fine mi sto pure appassionando, per cui ho guardato l'ultima partita con soddisfazione. Se vuoi un pronostico, l'Italia vincerà ai rigori. Ai rigori. Io ti devo dire la verità. Che è più emozionante, è più bello, tu dura di più, una fatica tremenda, una tensione. La tensione, la suspense. Anche io devo dire, spero di non inimicarmi molti ascoltatrici e ascoltatori, anch'io non sono per niente una tifosa, ma perché il calcio in Italia, quello maschile, perché quello femminile non si sa neanche che esiste, ma esiste, solo che fanno le operaie di giorno e poi giocano di sera, è arrivato a dei livelli, insomma, di scandali, di soldi, anche spesso di ignoranza che, diciamo, mi fa cadere un po' le braccia. Quindi l'entusiasmo non c'è. Devo dire che, vabbè, uno dice quando gioca la nazionale, non mi sento, lo dirò, io non mi sento rappresentata dai calciatori. Diciamo che Prandelli non mi dispiace. Ecco, un uomo per bene, mi è piaciuto in tante sue esternazioni, dichiarazioni, negli ultimi tempi un po', diciamo, così ad ampio orizzonte, ecco lui, Prandelli, diciamo che io invece ho una diffidenza istintiva per un gioco che si fa con i piedi. C'è qualche cosa di basso. Che mi suscita irritazione naturale. Qui poco decorosi i piedi rispetto al resto, ognuno giustamente al suo punto. Questa non l'avevo mai sentita, ma è interessante. Saverio dalla provincia di Forlì Cesena, provincia che potrebbe sparire, tu lo sai Saverio, perché qua con la spending review si dovranno accorpare diverse province, Saverio. Ma magari, voglio dire, sarebbe ora, nel senso che Forlì comprendeva anche Cesena e Rimini, poi dopo per tutta una serie di questioni di potere locale, Rimini si è fatto la sua provincia e Cesena non voleva rimanere da meno, adesso ci chiamiamo Foce, che non si sa bene neanche che razza di provincia sia. Cioè Forlì Cesena diventa in forma contratta Foce. Assurdo, Foce, insomma, siamo abbastanza. Le solite assurdità dei campanilismi, se noi non usciamo, grazie al Mario, non usciamo da questi campanilismi, da questi localismi, niente, insomma, non si può fare niente. Io volevo intervenire semplicemente perché come sempre Marchionne mi fa girare, allora voglio dire dall'altra parte ti fa girare, certo, insomma, voglio dire, fa girare dall'altra parte, sì. Perché che cosa voglio dire, una famiglia italiana come quella degli Agnelli, direi europea, che ha dato tanto alla nazione e che ha anche ricevuto tanto. Non dimentichiamo che la Cassa del Mezzogiorno gli ha costruito gli stabilimenti di Termini Imerese. Si dota di un amministratore delegato che secondo me non è che, almeno i giornali dicono, insomma, la Fiat sta perdendo dappertutto, sta facendo acqua dappertutto, cioè siamo al 17% in meno di vendite. Allora voglio dire, è un problema un po' generale delle auto, però la Fiat si è particolarmente colpita. Ma no, in particolare la Fiat in Italia, cioè non è che stiamo parlando della Fiat in Europa. Ma, insomma, sarà una battuta, insomma, che gli diano una concessionaria oppure Fiat Canada e Stati Uniti, però voglio dire, abbiamo bisogno di un amministratore delegato che sappia sfruttare anche le opportunità europee e liquidare come folklore la magistratura italiana. Pensiamo anche a tutto quello che stiamo facendo a livello di mafia, di lotta contro la mafia, eccetera, che i rischi che sta correndo la magistratura mi sembra un pochino spocchioso e poco rispettoso. Se non gli piace l'Italia, ma voglio dire, visto che è un grosso manager, ha ampio spazio anche negli Stati Uniti, insomma, perché ce lo dobbiamo tenere. Ecco, insomma, perché no? La paura, sai, si dice la più grande industria italiana, se va via dall'Italia, ma stiamo scherzando, insomma. Oltretutto, ti chiedo scusa, ma voglio dire, anche Will e Cheese dovrebbero anche un pochino ripensare alle loro strategie, perché adesso Bonanni sta facendo il leone con la Fornero, ma con gli accordi che ha fatto sotto il governo Berlusconi, escludendo la CGIL, sta facendo pagare alla Fiat, in termini di immagine e in termini, diciamo così, proprio anche economici, quei 174 operai da giustamente da reintegrare, perché licenziarli perché erano della CGIL, cioè voglio dire, questo è frutto dell'accordo Will-CISL Fiat, e adesso ci troviamo un Bonanni che invece vuol fare il leone con la Fornero, che tutto sommato sta portando a casa una dignitosa riforma del lavoro che ci sta riacquistando in una qualche maniera il rispetto dell'Europa. Grazie Saverio, quindi hai dato anche un tuo giudizio su questa riforma del lavoro che ha molti in visa, però giustamente tu dici ti sembra che sia già insomma un piccolo progresso. Giordano Bruno Guerri, vedo adesso è uscita un'agenzia in questo istante, il titolo è Fisco, due punti, la paura dei controlli spinge i redditi di ricchi e poveri, cioè evidentemente tutti adesso dichiarano di più per la paura dei controlli, e leggevo anche che la Corte dei Conti in questi giorni ha ribadito che la corruzione continua ad aumentare nel nostro paese e praticamente fa in modo, fra i vari danni, di far aumentare del 40% in più il costo dei lavori pubblici, che poi vanno ovviamente a pesare sulle spalle dei contribuenti, no? Tutto questo giro di mazzette, poi dopo devono far pagare di più i lavori che fanno con gli appalti truccati, e questo costa ai contribuenti un 40% in più di quello che costerebbe. Che dici, Giordano Bruno Guerri? Questo sì che è folklore locale. Dannoso, ma... È un tremendo folklore locale, cioè è un vizio nazionale dovuto alla mancanza storica di senso civico e anche, ahimè, a delle leggi molto oppressive, molto complicate, molto... pagare le tasse è un problema veramente tragico. Proprio dal punto di vista tecnico, io ti posso dire. Però che... io credo che gli evasori non siano particolarmente sprovveduti nelle questioni burocratiche, non è quello il problema. Sono decisamente più abili. È proprio una. Allora, qui è il trionfo della furbizia. Chi non paga le tasse è furbo. Vizio nazionale, storico. La furbizia italica. Maledetto. Sì. Sai che il termine furbo viene dal francese furbir. Ce l'hanno, cioè rubacchiare, ce l'hanno attribuito i francesi nel 500 e noi ce lo siamo tenuti felicissimi. E l'abbiamo perfezionato, diciamo, Giordano, l'abbiamo perfezionato. Ogni padre dice al figlio fatti furbo, cioè impara a fregare gli altri, a scavalcare le file, a non pagare le tasse, eccetera, eccetera. Sembra di fare del moralismo. No, la situazione realtà, effettivamente è quella. Il problema è questo. E la Corte dei Conti lo riconferma per l'ennesima volta. Ma vorrei sentire ancora Antonio da Napoli. Sì, sì. Buongiorno. Buongiorno Antonio, molto assertivo. Sì. Sì. Io volevo rapidamente commentare l'affermazione di Marchionne e anche quella della Fornero. Sì, senti, per dire sì. Che è diffusa l'opinione che siano delle affermazioni errate, che siano affermazioni sbagliate. Io le trovo profondamente esatte, quindi corrette, ma profondamente ingiuste. Mi spiego. Sì, sì, quando Marchionne dice che è folklore locale, lui non si riferisce alla sentenza ma alla normativa, dice una verità, nel senso che oggi la riassunzione obbligatoria in Europa e nel mondo non usa più. Quando la Fornero dice che il lavoro non è un diritto, non vuole dire un diritto, vuole dire che non è esigibile come un diritto. E anche questo è profondamente vero. Il punto è che l'una e l'altra affermazione sono profondamente ingiuste. Quindi formalmente corrette, ma ingiuste da un punto di vista etico-morale. Questo, Antonio? Dovrebbero suscitare una reazione ben più grave, che avesse al centro di cambiare un sistema che sta seppellendo una civiltà. Questo è il problema, del quale nessuno parla, mentre ce la si prende con chi fa affermazioni del tipo di quelle che ho detto. Mi consenta, prima di salutarla, sì, di dire a Giordano Bruno Guerri, sì, lei c'è, cioè qui, sì, una persona di grande valore che io conosco come storico, sì. Ma gli ho sentito dire una volta un'affermazione che gli chiedo se la conferma. Sì. Gli chiesero se lui era credente e rispose, questo anni fa, e lui rispose dicendo un Dio che fonda l'esistenza sulla scala alimentare e che toglie l'udito a Beethoven mi lascia qualche perplessità. Ecco, io vorrei chiedere a lui se è sempre di questa opinione. Grazie. Tra poco abbiamo questo collegamento interplanetario, però prima dacci questa risposta. Beh, Antonio ricorda benissimo, io confermo in pieno quello che ho detto, nel senso che un Dio che fonda la vita sul trionfo del più forte che mangia il più debole, pesce grande che mangia pesce piccolo, deve essere proprio così buono come ci viene raccontato. Beh, anche un Dio che lascia morire milioni di persone, che non fa nulla di fronte alle torture inenarrabili che tante persone nel mondo soffrono. Qualcuno dice vi ha lasciati liberi, ha lasciato liberi gli esseri umani, quindi insomma libero arbitrio, vi ha creati. Poi insomma, ognuno naturalmente ha le sue convinzioni rispetto a questo, il grande mistero per gli esseri umani, per la nostra vita. Comunque ha confermato, allora Giordano Bruno Guerri, qui in esclusiva, non ci sono più le mezze stagioni, colleghiamoci allora con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Ammettiamolo, quassù su Marte c'è una temperatura piuttosto fresca dopo i meno 140 dell'inverno, ma guardando giù col telescopio sul globo terracqueo e in specie sul suolo italico non si può non osservare il diffuso patimento da calura. L'italica penisola, anzi nei presenti giorni, evoca più che mai, se ci pensiamo, la commedia dantesca. Il paradiso di due gol del successo tecnico montiano, il limbo dei tapini esodati senza pace e il caldo infernale dilagante traghettato da Caronte. E a proposito di caldo, diciamolo, la calura cagiona specie su taluni bizzarri effetti, qui di seguito alcuni esempi. L'amministratore Fiat definisce folklore locale la sentenza di Pomigliano, la ministra Fornero afferma che il lavoro non è un diritto, il pidellino Cicchitto lancia l'allarme vacanze per i parlamentari prigionieri del duro lavorar. Un caldo, insomma, che ha i suoi begli effetti collaterali. Un caldo che non fa tanto bene neanche ai terremotati emiliani e il freddo di sicuro gliene farà ancora meno. Ma scusino, esimi parlamentari italici, non avevate forse promesso di devolvere una parte dei vostri esigui rimborsi elettorali, 91 milioni su 180 milioni di euro, ai territori colpiti dal sisma? Che fine fecero quei soldi? Ma sarà che col caldo evapora anche la memoria. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Che il povero sia in fondo un gran signore, che il servo stia assai meglio del padrone. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Rieccoci insieme sempre con Giordano Bruno Guerri, storico, giornalista, docente universitario, come opinionista estemporaneo di oggi al premio a Capri, dovrà consegnare questo premio all'800 24 0024. Tra pochissimo c'è Mario da Bologna, però volevo chiederti, Giordano Bruno Guerri, quindi abbiamo detto il PD che deve fare con chi deve allearsi, adesso si ritorna a parlare di questa alleanza tra progressisti e moderati, quindi parole povere, tra PD e UDC di Casini. Casini, l'uomo più corteggiato della politica italiana, si potrebbe dire ultimamente, certo è un bell'uomo, insomma, mi sembra sufficiente per essere tirato a destra e a manca. Secondo te, ecco, Vendola, dicevo ieri, ha avvertito PD, guarda che se non tieni dentro l'Italia dei Valori con Di Pietro io manco ci vengo nella coalizione, neanche partecipo alle primarie, anzi ha detto non mi siederei, fra le altre cose, neanche a bere un caffè con chi non ritiene prioritarie le unioni civili. Tu cosa ne pensi, caro Giordano Bruno Guerri? Che le unioni civili sono importantissime, io mi auguro che finalmente quella legge necessaria e degna di un paese appunto civile si faccia. Quanto alle alleanze, è ovvio che tutto dipenderà da come sarà la legge elettorale, se per vincere e governare bisognerà allearsi, si alleeranno. L'ideale però, secondo me, sarebbe che il partito che ottiene la maggioranza abbia un tale premio che possa governare da solo senza troppe alleanze e quindi che il PD rimanga solo, il PDL o come diavolo si chiamerà rimanga solo e soprattutto che non dobbiamo dipendere dalla volontà dell'ultimo democristiano, ma il più pericoloso che è Casini. Ah beh, questa è una dichiarazione piuttosto pericolosa, perché secondo te, Giordano Bernoulli? A parte che sia l'ultimo, perché è un democristiano. E li sintetizza tutti, spesso, ahimè, da quel che si capisce, senza averne la qualità. A parte che io spesso mi chiedo tra me e me, no? Ma il PD se mai si alleasse, fosse necessario, con se dovessero riformare la legge elettorale, con l'UDC? Allora, Bersani mi pare l'abbia detto più o meno chiaramente, non credo che se lo rimangerà, al Gay Pride di 2 settimane fa, quello nazionale di Bologna, aveva detto, aveva mandato una lettera dicendo saranno priorità del programma del PD le unioni civili, anzi aveva parlato, mi pare, di matrimoni omosessuali, comunque sicuramente di unioni civili, aveva parlato di una legge per il testamento biologico, aveva parlato di una legge per il divorzio breve. Come potrebbero sposarsi, diciamo così, PD e UDC su questi temi, che comunque non sono secondari? È per questo che io vorrei tanto evitare questo matrimonio, che probabilmente si porterebbe dietro anche il figlioletto spurio Fini. Dove lo mettiamo Fini? Cioè, veramente si va incontro a un'impossibile alleanza che di nuovo renderebbe questo paese immobile e preda dei compromessi politici. Senti, a proposito di alleanze, Giordano Bruno, parliamo anche di Lega. Oggi c'è il congresso, no? dopo parecchio tempo. Repubblica sul pagina online dà questo titolo: la Lega congresso, Maroni unico candidato alla guida del partito, mentre La Stampa oggi sulla prima pagina cartacea titolava così: oggi via il congresso, l'ombra di Bossi sulla Lega di Maroni. L'ex ministro, cioè Bossi, potrebbe essere eletto leader per acclamazione, ma il capo Maroni potrebbe essere eletto leader per acclamazione, ma il capo vuole andare alla conta. Quindi continua Bossi, nonostante tutto quello che è successo, nonostante gli scandali, eccetera, eccetera, a voler essere in primo piano. Che ne pensi? Poi si vedrà PDL, se si allerà di nuovo con la Lega, che faranno. Ma di Bossi che ne pensi? È la solita storia del padre che divora i figli per non morire. Bossi dovrebbe semplicemente ritirarsi, perché da questo momento in poi, anzi da un bel po', può solo creare problemi al suo stesso partito. Mario da Bologna, poi c'è Martino. Buonasera. Dalla provincia di Taranto, che sta aspettando anche Martino. Mario, prego. Buonasera, io telefono da Marte a questo punto. Ah, ci picchia, come mai? Questa è un'interferenza, no, un'intrusione? No, quando ho fatto la telefonata sono partito proprio dalle zone terremotate perché lavoro in un'azienda del biomedicale di Mirandola. Sì. Poi adesso mi sono fermato perché il caso della vita ha voluto che io mi sia trasferito a su Bologna. Marte. Quindi ah, dormo. Bologna. Dormo tranquillamente anche se i miei familiari sono lì, sono sotto una tenda, per cui a sentir parlare di vacanze, di Capri, io inviterei tutti a venire a fare 15 giorni di volontariato, ma non posso neanche pretendere che il terremoto rimanga per mesi e mesi in prima pagina. No, ma mi sembra anche giusto, perché invece si rischia di seppellirlo, diciamo così, usando un termine forte, nel dimenticatoio. È una cosa un po' triste, anche perché, voglio dire, egoisticamente si potrebbe parlare anche dell'importanza economica di queste zone, anche se non voglio fare poi dei paragoni. No, che è stata sbandierata per molti giorni, speriamo che se ne ricordino anche i politici che avevano promesso, ma appunto questi 91 milioni. È una falsa drammatica, anche perché si gioca sulle interpretazioni, anche cose banali come il rinvio dei pagamenti dei mutui. Poi io lavoro in amministrazione di un'azienda, quindi i dipendenti vengono da me a chiedere consigli, ci sono banche che continuano a fare domande mentre il decreto legge dovrebbe essere chiaro, così come invece fa confusione sul rinvio del pagamento dei contributi per i dipendenti. Insomma, una situazione abbastanza così, di una tristezza infinita. Però ho da dare qualche notizia anch'io, come fa lei all'inizio della trasmissione. Certo, Mario, con piacere. Cioè che, per esempio, la mitica ASL 1 di Napoli, che ha un record di debiti di 1600 giorni, ha pagato qualche fattura al polo biomedicale di Mirandola, quindi verrebbe da dire in modo amaro ci voleva il terremoto. Cioè loro, nonostante i debiti, che uno sforzo, dici, l'hanno fatto. No, allora, l'hanno fatto, quindi va dato atto, però dico, la battuta amara è ci voleva il terremoto per farli pagare. Per smuovere la situazione. Esatto, poi volevo dire che siamo pazzi se pensiamo di rimanere nel club dell'euro, perché io sin da subito ero fautore di una doppia valuta, quindi non tornare alla lira, perché poi si fanno... si fanno dei sarcasmi inutili, ma che non potessimo essere in grado di resistere a lungo in un club così, bastava vedere ieri la trasmissione di Porta a Porta, vedere l'astio, cioè del giornalista della Frankfurter Allgemeine, mi sembra, dei nostri politici, cioè questo non è un'unione, c'è poco da fare. No, ci vuole un'unione finanziaria, fiscale e anche politica effettiva, Mario, però non mi sembra che stiamo uscendo dal club, mi sembra che qualcosa si stia facendo. No, ma dico, anche i nostri politici vorrebbero rimanere nel club, però senza osservare le regole, necessità di riforme, e quindi allora io non sono per niente ottimista, quindi lei vedrà che fra 7 giorni riprenderanno le pressioni dei mercati, perché questa ho letto stamattina che non c'è stata una piccola c'era una situazione estremamente pessimistica, i mercati fanno così, reagiscono, poi fra 7 giorni tornerà tutto come prima. Mario, senti, ma tu non riesci a portare i tuoi cari a Bologna, almeno chi può? Ma no, ho una casa piccola, sono riuscito a collocare mio padre che è anziano, in un pensionato, quindi i servizi sociali dell'Emilia funzionano molto bene, poi mia sorella che è giovane, poi in tenda ci sta magari anche bene. Senti Mario, fammi... L'assenza di Monti è stata paurosa, quindi io credo che Monti sia un tecnico estremamente stimato, ma sta conducendo il paese alla rovina, questa è la mia, soprattutto con le regole di questo club. Io invece più umilmente punterei a fare un euro un po' più svalutato di 7-8 paesi, quindi rimaniamo sotto la Banca Centrale Europea con un euro un po' più svalutato, che ci consenta ai nostri paesi, perché c'è poco da fare, pensare di mettere insieme Germania e Grecia è una follia pura. E poi ci sarà un euro un po' più rivalutato di un euro A di Germania, Finlandia e Olanda, se ce la fanno, perché poi l'Italia con una valuta leggermente più svalutata è in grado di dire la sua, ma in queste condizioni noi andiamo sull'astrico, quindi se ne vedono già... Mario, sei molto pessimista, comunque vedremo, e ti chiedo questo favore, se ti va poi di intervenire anche i prossimi sabati, qui non ci sono più le mezze stagioni, e mi aggiorni sulla situazione lì in Emilia, se ti va. Realista, non va sono bene. Pessimista. Va bene, grazie Mario, io ti aspetto allora. L'Italia vince i rigori comunque. L'Italia vince i rigori, su questo sei molto ottimista allora, grazie Mario. Ciao Mario. C'è anche il nostro appuntamento, è vero, con il nostro Don Severino da Potenza, come ci scuoterà le coscienze questa volta, Don Severino, ciao. Ciao, buonasera. E con questo, non so se avete saputo, senz'altro sì, che la bella notizia, ma per me tristissima, della prossima beatificazione di Don Giuseppe di Don Puglisi, ucciso dalla mafia. Molto bella, molto certo. Bella. Ma verrà accostato con Alvaro del Portillo, che è il collaboratore di Scrivale della Guerra, il fondatore dell'Opus Dei, che è la mafia nella Chiesa, quindi un accostamento molto, molto simpatico. La cosa triste è questa, che viene beatificato questo Don Giuseppe Pugliesi e dal 1980 assolutamente silenzio su Oscar Romero, vescovo di El Salvador, ucciso all'altare, semplicemente perché è andato contro il fascismo, contro il nazismo e contro il potere. Riflettiamo un po', se questa... E poi un'altra notizia, se mi si permette, a Milano un parroco ha messo, a causa dei ripetuti furti, gli zingari non possono entrare. Chiederei a questo parroco di verificare prima chi li ruba in chiesa, ok? Grazie Don Severino. Prego, prego, sono un po' arrabbiato. Era un po' arrabbiato, si è sentito, e anche parecchio, insomma, diciamo, non ha peli sulla lingua. Don Severino, Martino dalla provincia di Taranto. Sì. Martino, tieni un po' buonasera. Assopito, diciamo, Martino. Sì. Sì. Sì. Sì. Sono intervenuto io per dare, non lo so, un consiglio. Un Teleton Salvo Italia, era possibile? Ma... A prescindere da quello che ho detto. Proviamo. E poi? Sì. Prego. Sì. Volevo dire, è inutile fare questi governi a coppia, che poi... Si lasciano, perché Bertinotti ha buttato a mare Berlinguer, come si chiama, Prodi. Prodi. Bossi e Berlusconi. Allora, è inutile, perché non si aggiustano queste cose una volta per sempre? Perché se si inizierebbe da sai ragazzi, quelli che hanno fatto la Costituente, no? Vedremmo che ha mandato l'Italia a queste condizioni, sono sicuro che Andreotti non sarebbe ancora lì a prendersi, non lo so, lo stipendio. Grazie Martino. Ok, la ringrazio. Volevi dare il tuo pronostico su Italia-Spagna? Ma mi auguro che vinca l'Italia. Ma per anzi, oggi è il mio compleanno. È il tuo compleanno, auguri. Chissà che domani non ci sia un bel regalo, allora, se ci tiene l'Italia. Che vinca l'Italia, allora. Grazie Martino. Arrivederla, grazie. Ciao Martino. Altro appuntamento. A proposito delle parole di questa settimana, a me viene in mente da chiedere a Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, ne abbiamo ripetuto più volte questo, folklore. Folklore, benissimo. Beh, una volta tanto conosciamo esattamente l'atto di nascita di questa parola. La parola è nata il 22 agosto del 1846, quando gli studiosi inglesi discutevano sul nome da dare a quelle che allora venivano chiamate ancora popular antiquities, le antichità popolari, e un archeologo che si chiamava William Toms propose, addirittura inventò la parola folklore, che aveva coniato unendo la parola folk, popolo, e la parola lore, sapere. Tra l'altro la parola in Italia ha avuto una certa difficoltà prima di essere accettata, è arrivata solo alla fine dell'Ottocento, però da allora la sua ascesa è stata inarrestabile, anche con un significato estensivo, cioè con quello che allude appunto all'aspetto chiassoso, superficiale, colorito di una situazione. Beh, proprio quello al quale alludeva Marchionne, e da lì sono nate tutte le polemiche che sappiamo. Grazie Valeria Della Valle. Dice vado in giro per cercare lavoro, ma ci stanno prima loro, dice che lo cerco a fa. Valeria era di fretta, ma io intanto stavo guardando questo sondaggio della società internazionale Career Builder, a proposito di lavoro, che rivela che oltre un terzo dei lavoratori italiani sono ingrassati all'inizio del loro impiego attuale. Quindi forse il lavoro, più che nobilitare, fa ingrassare. Per il 56% dei lavoratori l'incremento del loro peso corporeo sarebbe da attribuire alla sedentarietà della loro vita lavorativa. Come vedete, insomma, quindi non è sempre un vantaggio lavorare. Confortiamoci così. Giordano Bruno Guerri, io ti volevo leggere a proposito di Germania. No, io non ce l'ho con la Germania, anzi va bene la competizione sportiva. Però è venuto fuori una ricerca sconcertante davvero dell'Università di Berlino, Università Freie di Berlino, secondo la quale i ragazzi tedeschi ritengono Hitler, per ignoranza, un protettore dei diritti umani. Per 4 ragazzi su 10 i concetti di democrazia e dittatura si equivalgono. Questo studio realizzato intervistando 7.400 studenti in 5 tra i maggiori Länder del paese, cioè tra le maggiori, diciamo, regioni-stato del paese. Pensano che Hitler sia un protettore dei diritti umani. Questa cosa è terrificante, terrificante. Com'è possibile? È tremenda, soprattutto se pensiamo che quella sarà la classe dirigente dell'Europa, punto, se le cose continuano ad andare avanti così. Ahimè, è mal comune in questo caso, per niente mezzo gaudio, perché credo che se si facesse lo stesso sondaggio in Italia o in Gran Bretagna sarebbe la stessa cosa. La storia è negletta. Però che siano proprio i tedeschi a dire questo è veramente un segno allarmante. Sì, questa è la notizia della settimana. Diciamo appunto, più che euro, più che stare insieme, più che le regole stringenti, certo. Perché tutto va bene, ma insegnate ai vostri tutto ragazzi, fa per favore, male al nostro futuro, un po' di distinzione tra ciò che sono diritti, democrazia, dittatura, annientamento. Cattivi. Senti, leggevo un'altra notizia terrificante, che riguarda il caldo, che l'eccesso di caldo fa cadere i capelli. Tu hai queste preoccupazioni? Io sono assolutamente calvo e quindi sono assolutamente convinto che la bellezza del futuro sarà calva. Bene. E che chi troverà il modo per far cadere i capelli all'origine riceverà un Nobel. Questo per è l'augurio di Giordano Bruno Guerri. Carissimo Giordano Bruno Guerri, ti saluto e comunque vada la partita a Sereni Orizzonti. A tutti.